Allora, ci siamo. Sono una delle band rivelazione della scena indie italiana degli ultimi anni. Hanno due album all'attivo, tantissimi live in tutta Italia, dove si sono fatti conoscere per il loro modo ironico e irriverente di fare musica. Presenteranno il loro nuovo album con un concerto per la prima volta al Forum di Assago a Milano il 22 aprile. Due sono stati i singoli che hanno preceduto questo album, Amarsi male e Mai stati meglio. E stasera ascolteremo Amarsi male, lo stato sociale. Ti va se dopo la partita facciamo l'amore, o quando un po' di tempo cuciniamo una torta e la mangiamo da nudi, ma solo se ti va. Ti va di comprarmi un vestito, niente di appariscente, giusto un po' elegante per le occasioni speciali, ai matrimoni e funerali. Ti va di guardare in TV quel programma coi cuochi che cantano, o leggiamo una guida di un posto lontano dove non andremo mai. Non ci sarà mai il tempo di fare quello che ci va, tra qualche scaffale di scarpe col tacco e una giungla di tofu e sei tango. Non ci sarà mai il tempo di fare quello che ci va, mandiamo tutta la nostra poesia a puttane. Amami come ameresti te se fossi me e viceversa, quindi male senza capire niente. Manco il cielo al suo posto. A vedere quel film di cui parlano tutti, con quell'attore famoso che da poco ha fatto Coming Out. Ma solo se ti va. Ti va se ti porti in quel posto, in quell'agriturismo col cinghiale bio, o se andiamo di corsa una pizza gourmet in piedi alla fermata del tram, anche se fuori fa freddo e siamo nudi. Non so, e che ci frega, tanto è gourmet e non passa mai. E poi mai, non ci sarà mai tempo di fare quello che ci va, tra qualche scaffale di scarpe col tacco e una giungla di tofu e seitan. Oh, non ci sarà mai tempo di fare quello che ci va, mandiamo tutta la nostra poesia a puttane. Tu amami come ameresti te se fossi me e viceversa, quindi male senza capire niente. Ma col cielo al suo posto in una città trafficata, una vita al contrario e di sogni a metà. Ah, ah, ah. Abbiamo finito la festa. Cielo, restare sempre laddove sta, mi porti a guardare il cielo, restare sempre laddove sta, mi porti a guardare il cielo, restare sempre laddove sta, ovunque ma che sia vicino, che ormai ho una certa età. Ah, ah. Amami come ameresti te se fossi me e viceversa. C'era al suo posto in una città trafficata, è una vita al contrario e di sogni a metà. Ah, ah, ah. Abbiamo finito la felicità. Stato sociale, grazie tante ragazzi. Ciao. Piacere di avervi qui, grazie. Andiamo al centro, bravissimi, complimenti. Loro sono un collettivo, cioè fate anche i nomi, a dire Albi, Checco, Lodo, Bebo, Carota, cioè questo sì, è. Sì, sembriamo tutti personaggi di Pongo dai un nomi. Un pochino, sì, però insomma, Stato Sociale è un nome programmatico, nel senso che guarda, ha a che fare con quello che, di cui sentite la mancanza. Sì, sì, noi vogliamo riempire un vuoto di mercato, parlare non di fantascienza ma quantomeno di realismo magico, e quindi lo Stato Sociale in Italia non c'è, lo facciamo noi. Fossimo stati francesi ci saremmo chiamati bidet. Sì, cioè una cosa che non c'è appunto, una cosa che manca. Amarsi male, adesso va molto di moda citare, faccio anch'io, un mese dalla pubblicazione, 300.000 streaming su Spotify, insomma numeri molto importanti. Tra l'altro ad aprile vi esibirete per la prima volta ad Assago, al forum di Assago qui a Milano, sì. Quindi con un concerto che si intitola? Un bel concerto da mitomani. Ecco, perché appunto diciamo con molta modestia, ma in realtà invece hanno un seguito pazzesco e apprezzatissimi, per esempio da Guccini, insomma sono una realtà molto molto importante, e c'è molto attesa per il prossimo lavoro, una volta sì. Si diceva disco, io dico disco perché sono vecchio, ma come si chiama? Si chiama uguale, solo che non lo comprano più. Più, esatto, però. Vabbè. Il prossimo disco che non comprano più e nessuno sa il titolo, allora ho detto, ma ditemelo stasera, come sì, si chiama? Sì, te lo diciamo stasera, dai. Si chiama Amore, Lavoro e Altri Miti da Sfatare. Quindi anche qui continua come lo Stato Sociale, c'è tutto quello che non c'è. No, ma esce, tra l'altro, quando esce? Il 17 marzo, venerdì 17 marzo. Ottimo, perfetto. Mi hanno detto che sei scaramantico. No, ma io, il disco, cioè io sarei scaramantico per il mio disco, ma per il vostro che gli importa? No, giustamente. Allora, Stato Sociale, grazie tantissimi, complimenti davvero. Grazie.